Questa? Allora, questa è la storia di? Elsa. E? Anna. In pratica si chiama la storia di? Frozen. Benissimo. Tra splendidi monti lontani, nel regno di Arendelle, vivono due sorelle. Elsa, la maggiore, è una bimba speciale. Ha il magico potere del freddo. Con le sue mani può creare mondi incantati di ghiaccio e di neve. E Anna, la più piccola, adora giocare con lei. Ma un giorno, senza volere, Elsa colpisce la sorellina con un gelido raggio. Il re e la regina ora sanno che la sua magia può essere pericolosa. D'ora in poi Elsa porterà dei guanti per trattenere l'incantesimo del gelo. Ma la cosa più triste è che non potrà più giocare con Anna. Corre il tempo, passano gli anni. Le due sorelle sono ormai splendide fanciulle e per Elsa è venuto il momento di diventare regina. Regina. Alla cerimonia Anna è accanto a lei, ma di tanto in tanto guarda tra gli invitati Hans, un giovane che le ha rapito il cuore. È stato amore a prima vista. Poco dopo averlo incontrato, Anna ha capito che Hans è il ragazzo giusto, il più dolce che esista, e vuole sposarlo. Ma quando lo presenta alla regina Elsa, lei la mette in guardia. «Non è possibile! L'hai appena conosciuto!» Anna insiste, afferra la mano della sorella per convincerla e le sfila un guanto. E ad allora che la gelida magia di Elsa esplode davanti a tutti. Gli invitati osservano increduli e spaventati la sala da ballo che si ricopre di ghiaccio. Gelo e neve intrappolano persino le navi nel porto, mentre su tutto il regno di Arendelle cala un terribile inverno senza fine. Ancora una volta la regina ha paura di fare male a qualcuno e decide di andarsene per sempre. «State lontani da me!» sono le sue ultime parole ai sudditi. E Anna? Oh, non resterà certo a guardare. Dopo aver affidato il regno all'amato Hans, parte alla ricerca della sorella. Elsa è ormai lontana, sulla montagna del nord. Qui, senza paura di ferire qualcuno, può scatenare i suoi poteri e con la magia costruisce un intero palazzo di ghiaccio scintillante, un vero castello incantato che luccica come un diamante. Anna intanto ha incontrato un tipo buffo e simpatico, si chiama Christoph e ha per amico la renna Sven. Anna lo trova un po' strano, ma è sicura che quel ragazzo potrà aiutarla a ritrovare Elsa, anche se la strada da fare è ancora tanta e piena di pericoli. Sì, è lungo il viaggio tra i monti e i boschi, ma il castello di Elsa è vicino. Anna scopre che la magia del gelo ha creato gioielli di ghiaccio e anche un pupazzo di neve che parla e si muove. Si chiama Olaf. E sarà lui ad accompagnarla dalla regina. Ed eccolo, finalmente il palazzo di Elsa. C'è anche un mozzo in neve. Sì, è davvero straordinario. Olaf, Anna e Hans salgono le scale di ghiaccio splendente che sembrano fatte di cristallo. Anna è felicissima. Quella è una giornata indimenticabile. Presto il cuore le dice tornerà a casa con la sua sorella adorata. Elsa invece non è contenta di rivedere Anna, ha paura di ferirla di nuovo. La sorella le spiega che deve tornare perché su Arendelle è disceso un inverno infinito, ma la regina proprio non sa come rimediare. Non importa, Anna tende le mani verso di lei, insiste, non si arrende. Ed è all'improvviso succede ancora. Elsa si arrabbia e senza volere scatena la sua magia, colpendo Anna al cuore. L'incantesimo del gelo è lento, ma niente può arrestarlo. Anna sente un brivido mentre il freddo piano piano comincia a impadronirsi di lei. Nonostante tutto, Anna non vuole partire senza Elsa. Così la regina, per costringerla ad andarsene, ordina a un gelido gigante di accompagnarla fuori dal regno. Anna gli tira una palla di neve e lui si infuria. Sai cosa vuol dire infuria? Arrabbia. Via, via, meglio scappare. Hans e alcuni soldati di Arendelle si sono messi alla ricerca di Elsa e sono ormai in vista del palazzo della regina. Triste per quello che è successo alla sua adorata sorella, Elsa non controlla più i poteri e una tempesta di ghiaccio turbina sulle montagne. Intanto, per liberare Anna dall'incantesimo, Kristoff l'ha portata nella terra dei troll. Queste buone creature conoscono i segreti della magia. Ma neppure il loro saggio capo può aiutare Anna. Solo un atto di vero amore, spiega lui, riuscirà a sciogliere il gelo dal suo cuore. Nello stesso momento, Hans e i soldati sono giunti davanti al palazzo di Elsa. Il gelido gigante, suo servitore, cerca di proteggere l'ingresso, ma gli uomini riescono lo stesso a entrare e catturano la regina. È stata breve la sua felicità. Ora dovrà lasciare il suo magnifico regno di ghiaccio e neve. Hans riporta Elsa ad Arendelle e la rinchiude in una cella. Sai cos'è una cella? È come una prigione. Pesanti catene adesso tengono prigioniera la regina e i suoi poteri. Dov'è Anna? Chiede lei ad Hans. Non è tornata, risponde lui. Tutto sembra perduto. Ma ecco, Anna è arrivata invece e subito corre dal suo Hans, sicura che un atto d'amore, come le ha detto il troll, la salverà dall'incantesimo del gelo. Basterebbe un bacio, eppure Hans resta immobile e non la stringe a sé. Perché? Perché in verità Hans non ama Anna. Ha fatto finta di volerle bene per impadronirsi del regno di Arendelle. E per riuscirci davvero, ormai gli basta poco. Deve liberarsi per sempre di Elsa e di Anna. Per questo spegne il fuoco, perché il freddo raggiunga più in fretta il cuore della ragazza. Hans se ne va. Ma Anna non resta sola. Olaf l'ha raggiunta e getta della legna nel fuoco per ravvivarlo. È felice, sì, perché sa che Kristoff può ancora salvare Anna. Lui la ama davvero e sta già arrivando al galoppo con la renna Sven. Olaf aiuta Anna ad alzarsi per andargli incontro. Anna sta per farsi baciare da Kristoff quando vede Elsa. È riuscita a fuggire dalla sua prigione, ma ora Hans sta per colpirla con la spada. Senza esitare, Anna si getta sulla sorella per difenderla e la spada si spezza. Grazie a quell'atto di vero amore, l'incantesimo si scioglie e il gelo lascia per sempre il cuore di Anna. Torna a splendere il sole nel cielo. Rifiorisce Arendelle. D'ora in poi arriveranno, una dietro l'altra, tante belle giornate. Soltanto Olaf ha bisogno di un po' di gelo per non sciogliersi. Ed Elsa è ben contenta di regalarglielo con un tocco delle sue mani fatate. Oh, che felicità! L'inverno fugge via e torna l'allegria a dipingersi sui visi. L'affetto tra sorelle ha fatto una magia. La storia di Elsa e Anna finisce tra i sorrisi. Perché pattinano? Perché si divertono un sacco. Perché loro non sanno pattinare? Non lo so, forse non hanno ancora imparato. No, forse perché non hanno questi. Ah, forse non hanno i pattini, è vero. Lei è capace anche di pattinare senza i pattini. Eh sì, perché lei fa le magie del ghiaccio. Finita, ti è piaciuta? Molto. Va bene, adesso andiamo a letto.